Brasil. La nostalgia è tu Brasil. Brasil sta lì. L'Italia qui. Che numero! Tutti convocati. Di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Mi sa poi di cosa è il rating del Mario 2 in big situation. Yeah, I'm different, I'm Mario, so... What about Mario Balotelli? There'll be a lot of stories about him again. There'll be a lot of stories about him again. No malice, we need a challenge. The media say we are savage and we are callous. When we go at it, leave it damaged. Believe in magic, they hope we burn. The thought is tragic, the thought is tragic. Fire with me. Uno contro uno di Candreva, in ritardo Benz, pronto a traversione Candreva, lo salta secco, eccolo sul sinistro, secondo palo. Mario Balotelli. We watched the videos about this team and they are a really good team and we need to respect them and the way we have to respect them is to Non parli italiano? Posso parlare italiano? Sì. Sono un po' impreparato su questa domanda perché il portiere della Costa Rica non l'ho visto sinceramente. Non, l'ho vista la partita, ma non, sinceramente gli studi dei giocatori, del portiere così, li vedrò questa sera, quindi non so bene cosa dire. Se vuole posso rispondere io. No, sta vivendo il momento in modo molto tranquillo, non ho assolutamente né pressioni né niente di questo tipo. Sono molto tranquillo, vorrei andare avanti il più possibile in questo mondiale e non so, personali spero di poter fare più gol possibili, però l'importante è che la squadra vinca e vada avanti, ecco. Abbiamo letto la tua proposta di matrimonio, in campo abbiamo visto un giocatore completamente diverso, lo dico in positivo, rispetto a quello che abbiamo visto al Milan negli ultimi tempi. Se senti qualcosa di speciale, di particolare qui in Brasile? Ma a parte che la proposta non c'entra niente con il mondiale, la proposta c'era anche se non ci fosse stato il mondiale. E ovviamente sì, perché questa competizione è la più grande che ci sia per un calciatore. Vorrei dare tutto me stesso, come tutta la squadra, eh. Ed è normale perché un mondiale è più, secondo me, è più importante di un pallone d'oro, di un campionato, di Champions League, quindi è normale che ti scatta qualcosa. Io personalmente guardo le partite per divertimento, a me piace guardare il calcio. Chi arriva in finale non è un problema, una vale l'altra, tu devi dare il 200% a tutte le partite, quindi l'importante è che ci arriviamo noi. Non mi faccio mai un'idea o un'opinione di una squadra, so che sono tutte forti e tutte da rispettare. Cappellino alla rovescia, seduto accanto a Prandelli, questa è la conferenza stampa della vigilia di Mario Balotelli, potrebbe essere, vi piaccia oppure no, lui l'uomo del nostro destino. 800 24 00 24, Franco Petrini, autore di questo programma, Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. E se insomma vivere giorni come questo è comunque bellissimo, io credo. Chi ha paura alzi la mano, 800 24 00 24, che magari gliela facciamo passare noi. Intanto ieri seconda testa coronata che è quasi finita nel cesto, quasi decapitata l'Inghilterra con questa, tra l'altro, come da pronostico da un figlio del suo campionato, il più ricco e conteso del mondo, che non riesce a partorire lo straccio della nazionale competitiva. Adesso gli inglesi dovranno tifare come dannati per i loro killer precedenti, cioè noi, perché l'unica via per l'Inghilterra è quella di un'Italia che fa punteggio pieno, che batte Costa Rica e che batte magari l'Uruguay, e per restare appesi a un filo di speranza. Intanto, sempre ieri, conferma della Colombia, che è qualcosa di serio, l'abbiamo visto con la Costa d'Avorio, 2-1 sulla squadra di Gervinho e Drogba. con l'Italia spettatrice interessata di questo girone che nella notte ha partorito una partita davvero per a luci rosse, per cultori della materia se volete, 0-0 tra il Giappone di Zaccheroni e la Grecia, qualcosa di adatto per quell'ora, diciamo così, da mezzanotte alle due. Italia spettatrice interessata di questo girone, con il quale, fate gli scongiuri che volete, dovremmo andare ad incrociare in futuro. 8-0024-0024, Pardo arriva alle 3, Ricci, nostro inviato laggiù in Brasile, tra un po', abbiamo altri ospiti, abbiamo soprattutto voi. Tutti convocati. No, la preoccupazione è che è una squadra che conosce molto bene il sistema di gioco, che sfrutta al meglio le caratteristiche dei giocatori e ha tre giocatori davanti di grandissima qualità, giocatori che sanno giocare nell'uno contro uno, giocatori che attaccano a profondità, giocatori importanti, quindi c'è preoccupazione. Non possiamo dire chi giocherà perché viviamo proprio ora dopo ora per capire se questi piccoli infortuni sono stati recuperati. Ieri ad esempio Barzagli ha avuto qualche problema, non possiamo dire oggi gioca, domani no. Per quanto riguarda Gigi, la stessa identica cosa. Questo ovviamente Prandelli, dato che è un giorno speciale, bellissimo da vivere, vogliamo farlo nel modo migliore, almeno per me è uno dei modi migliori, parlando con Evaristo Beccalossi, uno dei miei interlocutori preferiti. Ciao Bec. Ciao, buon pomeriggio. Senti. Siete pronti? Ah, pronti? Ma tu hai paura? No, paura perché? No. Temo solo una cosa. Quale? Perché l'Italia mi è piaciuta nella gara di esordio, sì. Però ecco, lì le condizioni climatiche sono un po' particolari, quindi Costa Rica sicuramente con dei giocatori veloci e noi dobbiamo star bene come Italia a livello fisico, preoccupa un po' il clima, ecco. Sì, il clima preoccupa un po', vedremo se saranno così decisi quei minuti di sospensione di cui si è tanto parlato, ma ancora ne abbiamo visti, magari potrebbe essere il caso, sempre che siano utili. Serve attenzione, certamente non paura, l'Italia è più forte, no, di Costa Rica, il che in una partita secca non significa nemmeno tantissimo, però è un fatto, loro sono atletici, è vero, però giocare tatticamente contro l'Italia, io continuo a pensarlo, è sempre un bel problemone per tutti, perché da quel punto di vista lì siamo ancora probabilmente più bravi. Ma nella lettura delle gare sì, anche se la gara di apertura ci ha mai impressionato l'Italia, perché avevamo 5-6 giocatori che non erano nei loro ruoli naturali. Verratti era stato portato lì come alternativa a Pirlo, invece abbiamo giocato con due registi, Marchisio largo, Candreva largo, Chiellini a sinistra, quindi con tutte le difficoltà e l'estrosità anche di Prandelli, perché insomma ha messo un doppio regista, mi dà molta fiducia. L'unica preoccupazione è che loro hanno due o tre giocatori velocissimi e noi dobbiamo stare bene lì fisicamente. Sì, la difesa secondo me è, adesso vediamo se gioca Barzagli o no, lo scopriremo vivendo. Anche secondo me no, e non è neanche una brutta idea, perché è inutile giocare con giocatori fuori condizione. A proposito di giocatori non in perfette condizioni, Buffon in porto o Sirigu secondo te? Io proseguirei con Gigi, lo recupererei totalmente, nel senso che non, per il rispetto che ho per Buffon, siccome sarà il titolare, però il ragazzo Sirigu è andato la prima gara, farei fare anche la seconda e poi recupererei Gigi sperando di andare più lontano possibile. Sì, non vedi problemi diplomatici nel lasciare fuori Buffon? No, non credo. Anche perché è affascinato, è grande, sa che è ancora uno dei più forti. Ah, questo però, sicuro. Però sfrutterei l'euforia in questo momento di Sirigu. Sì, ma poi soprattutto vale il discorso di prima, no? A un mondiale è meglio far giocare quelli che stanno bene, che sono al 100%, anche se è chiaro, Buffon, Barzagli è il giocatore più, probabilmente tatticamente più importante della nostra difesa, però mi lascia più tranquillo il fatto, la mia unica preoccupazione è quella che hai detto tu, cioè giocatori vagamente fuori ruolo. La difesa che dovremmo vedere stasera quantomeno ha giocatori nei loro ruoli naturali, Darmiana da una parte, esatto, Abada dall'altra, sono tutti, insomma, mi lascia più tranquillo una cosa così. No, ma quello è il bello del calcio, perché tutti prima della partita inaugurale con l'Inghilterra eravamo un po' preoccupati, insomma, sì, di questo cambio di ruolo. Invece per il calcio è bello anche per quello, che di certo e di scontato non c'è niente, quindi l'importante è che stiano bene i giocatori, poi l'Italia può giocare in qualsiasi modo. Senti, parliamo di magliette. Allora, io prometto che potrei regalartene due, una quella del nostro programma Tutti Convocati, l'altra azzurra con una scritta bianca, Why Always Me, hai presente? Quella di Balotelli, l'uomo che buttò la tua maglia per terra, rischia di essere, potrebbe essere, e io spero sia, l'uomo del destino. ma io ho un episodio che di Mario, che quando sembra che stia bene, che stia veramente sul punto di fare il salto di qualità, ha sempre avuto problemi. Nell'attimo che pensi di averlo perso e dici vabbè, lo porto in panchina, lo metto dopo 10 minuti, e ha contribuito alla vittoria in Premier League con Mancini e con Manchester City. Quindi è un giocatore che non sai mai quello che però sono giocatori che ci vogliono in una squadra, che ci vogliono soprattutto perché sono capaci di qualsiasi cosa, quindi va preso nel bene e nel male, sperando che un giorno faccia quel salto, perché potenzialmente secondo me è un grande giocatore. Sì, e il salto potrebbe essere adesso, anche perché questo ambiente è quello che insomma più gli sta meglio addosso, è quello in cui non ha mai avuto grandissimi problemi, è quello che lo fa sentire probabilmente anche più protetto. Anche il rapporto con Prandelli mi sembra perfetto, come con nessun altro allenatore probabilmente. Non lo so, dipende da lui. A me viene in mente Inter, City, Milan, sì. Cioè è lui, veramente io l'ho visto anche tante volte allenarsi, cioè potenzialmente questo è un ragazzo che veramente può arrivare veramente a livello dei grandi giocatori, però dipende da lui. So. Oppure saremmo costretti a tenerlo, tra virgolette, costretti a tenerlo con i suoi alti bassi, se c'è, non si sa mai com'è. Però è giocatore di alti, calcio, bassi, questo. Dritti e storti. Sì, dipende da lui e non dipende da chi lo gestisce. Possiamo solo sperare. Potrebbe essere invece la volta in cui serve un 10 come Cassano, a proposito di giocatori che dipendono solo dalla loro testa, dal loro estro, dalla loro concentrazione. Potrebbe essere utile oggi Cassano? Io ho un giocatore che adesso se ne sta parlando poco, però ragiona in un modo: se vediamo che non riusciamo a sbloccare il risultato e devo rischiare, è un giocatore che anche in 20 minuti e mezz'ora ti può cambiare il risultato, quindi lo vedo in quella logica lì. Mi dispiacerebbe che fosse impiegato perché siamo sotto. Sì, esatto. Essendo sotto sei costretto a rischiare. No, ci sono dei giocatori tecnicamente che, cioè anche lo stesso Immobile, Balotelli, secondo me potrebbero giocare insieme. Però è un gruppo di giocatori, già la rinuncia della prima punta fa pensare molto, perché abbiamo giocatori di qualità e dipende da come stanno, e secondo me Prandelli lì deve capire chi sta bene e chi magari ha faticato per alternare un po'. Beh, non c'è poca Inter in questo mondiale, che è bellissimo, pieno di gol eccetera, però una delle novità è poca Inter, Poca Inter, ce l'avevamo uno, me l'hanno fatto tornare per fare le vacanze, c'avevo Ranocchia, credo che ci potesse stare tranquillamente nel gruppo, però si vede che il mio amico Cesare si è confuso un po', internazionale, pensava che fosse una squadra internazionale, ha lasciato l'italiano. Sì, guarda, mi suggerivano ora, sì, hai Kovacic, hai qualcosa sparpagliato qua, là, Kovacic con la Croazia, che secondo me è una bella squadra, eh? Hai Julio Cesar in porta nel Brasile, è un ex Inter, hai Mike Connex. Però adesso sai che io ho simpatia, che le mie due squadre sono l'Italia e il Brasile, quindi per Julio sono particolarmente felice, perché insomma... da noi ha fatto veramente la storia. Sì. Sono contento che gioca nel Brasile, però ecco, nell'Italia mi manca Ranocchia. Ti manca Ranocchia. Funerale spagnolo, come l'hai vissuto? Ma l'ho vissuto lì più che il valore ancora della squadra, perché poi quando vai fuori così è chiaro che dici è finito un ciclo e tutto, però credo che ci sia stato un po' di logorio a livello psicologico di chi comanda e di chi non comanda, perché anche Del Bosque, che è un allenatore molto equilibrato così, e credo che sia stato costretto anche a fare delle scelte ascoltando molto i giocatori, e quello sicuramente forse non ha fatto il bene della squadra, perché ritengo che la Spagna ha ancora grandissimi giocatori. Sì. Probabilmente la motivazione è mancata completamente. Sì, questo è vero, ha pagato il suo tributo di riconoscenza nei confronti di questa generazione. Adesso questa generazione è finita, hanno un under 21 molto forte, ripartiranno da lì come è successo a noi nell'86 più o meno, La storia sì, più o meno, no, piano far fuori fior di giocatori, perché magari cambiando un manico tu recuperi il cappello, a volte è molto importante quello, Beh, grazie. Grazie, buon pomeriggio. Ciao Evaristo, ciao. Grazie davvero. Ragazzi, tocca a voi, voglio sentirvi carichi. 800240024, numero verde, e mi raccomando, niente paura. Luca da Brescia, buongiorno. Ciao Carlo, ciao. Grazie della convocazione. Grazie a te. Mille. Allora, io vi chiamo forse per correggervi, poi magari la brutta figura la faccio io. Allora, giorni scorsi discutevamo della famosa classifica Wolf della differenza rete. Sì. Io mi sono andato a leggere un po' di cose su internet e sembra che è diversa dalla Champions League in questo caso. Cioè, qui al Mondiale la goleada con la squadra Materasso conta. In caso di arrivo a 6 punti di differenza rete, due o più squadre, vale la differenza reti contando anche i gol fatti con la squadra che è rimasta a 0 punti. Quindi tutta un po' la pipologia che ci siamo fatti sul due giorni fa sulla Spagna, Cile, sul biscotto eccetera. È comunque è stato comunque un regolamento nuovo, perché è una nuova regolamento che è stato variato rispetto alle precedenti edizioni del Mondiale proprio per evitare situazioni di questo tipo, con le quali però io temo ci finiremo per imbatterci da qui alla fine dei gironi, perché ci sono molti gironi in cui la situazione è abbastanza complicata e quindi non escludo che nell'ultimo giro di partite qualche sospetto a noi che siamo sempre maliziosi ci verrà, poi speriamo di no. Ronald, grazie Luca. Ronald, provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno Genta. Buongiorno. Un piacere, scusate che le chiamo a un orario nel quale uno normalmente dovrebbe lavorare, ma dopo la vincita di ieri del mio paese Uruguay è stato veramente un giorno libero. Un giorno libero, giusto, com'è giusto che sia. Come hai visto l'Uruguay? L'ho visto molto molto bene, migliorato tantissimo. Il peccato che sempre si fa in qualsiasi squadra è un po' l'arroganza o sottovalutare le squadre avversarie. Logicamente ieri abbiamo visto una partita veramente fino al fondo con tutta la voglia. Luis Suarez è un giocatore mostruoso. È vero che confronto a lui, Balotelli, Cassano e tutti questi sembrano dei dilettanti, perché ha un curriculum che è più che un curriculum, è una fedina penale. Tu sai che i precedenti ha avuto in Inghilterra un sacco di giornate di squalifica, però è un giocatore davvero clamoroso. Quando è un giocatore così, puoi andare incontro ai mondiali con un po' di fiducia, anche se, devo dire la verità, a me l'Uruguay sembrava una squadra vicina al capolinea. Questa è ancora la squadra che ha fatto un grande mondiale precedente, poi la Coppa America, poi una qualificazione stentata. Invece non so se per grande merito dell'Uruguay o per tanti demeriti dell'Inghilterra, ieri ha fatto una grandissima figura. Ronald, grazie. 800240024, primo break con la borsa, poi di nuovo qui. Abbiamo un giocatore moderno, un attaccante moderno, un giocatore che sul primo controllo si può orientare per cercare la profondità degli altri attaccanti. È un giocatore molto molto interessante, perché riesce anche a trovare la porta da fuori area, un bel tiro. È una squadra completa, difficilmente che puoi pensare di affrontare solo in un modo. Devi essere capace durante la partita di cambiare anche atteggiamento tattico. Tutti convocati. Sembrerebbe che tutto rimanga normale, ma il clima non è normale, perché varia da in 10 minuti ti può cambiare. Anche oggi abbiamo simulato, ho cercato di capire, all'1 e 20. 1,25, c'erano 29 gradi e 57% di umidità. Dopo 20 minuti che si è aperto un po' il cielo senza nuvole, i gradi erano quasi 40 e l'umidità era più di 70, quindi secondo me andrebbero fatti sempre comunque. Allora, ho deciso di aprire Radio Voto. Facciamo? Chi sarà l'ombra del partito secondo voi questa sera? È bene o nel male, come vi pare. Intanto stavo leggendo mentre sentivo Prandelli. Kakà potrebbe andare via dal Milan, è quasi sicuro. Questo è quasi sicuro. A quanto pare c'è una pista a San Paolo, poi potrebbe andare negli Stati Uniti, eccetera. Si parla di Balotelli, di questa offerta dell'Arsenal che forse non c'è ancora, ma magari ci sarà. Domando chi giocherà nel Milan l'anno prossimo. Forse Saponara, che è stato riscattato. Bah. Ciro, provincia di Ancona, buongiorno. No, sono Ciro di Napoli e sto in provincia di Ancona perché faccio l'autista. Perfetto. Allora, siete delle persone squisite. ma proprio ma non è vero, ma non è vero, siamo delle carogne totali. Ma non è vero, perché io vi definisco come una bella pastiera napoletana. Oh, grazie. Ho detto tutto. Così mi ha fatto venire fame. Non ho ancora mangiato oggi. Allora, io questo mondiale a me mi sta portando fortuna sia a me che a mia figlia, perché io mi sono giocato l'uscita della Spagna, ho beccato. Beccato. Mia figlia si è giocata la vittoria del Cile e l'ha beccata. Beccata. A prossima. Mi sono giocato l'uscita dell'ottavo di finale del Brasile. Ah, questo non è male, eh? A quanto? Mi sembra 6,5, mi sembra. 6,5? Bene, sì. non è neanche altissima, eh? Sì, e poi mi sono preso l'Uruguay ieri, la perdita dell'Inghilterra ho beccato, però c'ho solo una preoccupazione adesso. Che a casa non mi stanno rispondendo più, perché io dal camion chiamano a Napoli, sì. E da papà, vedi che dice fammi queste cose, ha detto guarda papà, ti abbiamo preparato tutto per sabato e domenica perché non ci siamo. E mi sa che mi hanno beccato pure a me. Vabbè, ma è divertente anche così, no? Il tra mondiale e scommesse non è una brutta idea. Sono anche un po' preoccupato per quello che sta succedendo a casa, mi faccia sapere, insomma. Vediamo cosa succede. Io voglio dire a mia figlia, mi stai ascoltando a papà, basta, mi preparo un bel spaghetto con pomodoro a papà, poi andate dove volete voi. Posso venire? Come no? Vado, sei squisito. Fantastico, vengo anch'io. Va bene. Come si chiama sua figlia? Mia figlia si chiama Cinzia. Cinzia, per due, eh? Non solo a papà. No, qua mi fanno segno 4 dalla regia perché vogliono venire anche loro. Quindi Cinzia per 4. Grazie Ciro. Ciao, buon viaggio. Matteo, Treviso, buongiorno. Buongiorno, per 5 vengo anch'io a mangiare gli spaghetti. 5, ok, perciò tutti a casa di Ciro. Io sono un aderente al partito degli ottimisti, però sono preoccupato perché dopo che ho sentito la conferenza stampa di Balotelli che parlava di rispetto all'avversario, dare il 100%, importante la squadra, non i suoi gol, mi sa che è diventato democristiano anche lui come parla. Oh, sì. Ho anche io questo sospetto, c'è un'ondata Prandelli me l'ha rovinato perché di solito non era così. Secondo gli standard di questa nazionale non c'è neanche una polemica. E lo so, infatti siamo qui tutti ad aspettare qualcosa. Spero in una conferenza stampa di Cassano, così almeno più che altro vediamo se Cassano gioca stasera, perché se si fa la seconda in panchina consecutiva, allora lì magari ci divertiamo un pochino, no? Ecco, dai, almeno una polemica, perché a parte il caso Rossi, ma ormai si parla di un mese fa, poi non c'è neanche una polemica, io sono un po' preoccupato. Sì, quello anch'io, ci stiamo divertendo, punto. Mi fai una cortesia, mi fai mandare il traffico a Pardo dopo che mi esalta troppo? Sì, traffico a Pardo te lo faccio mandare, allora prendiamo un appuntamento tra il traffico e Pardo alle 15:45. Alle 15:45 Pardo lancerà il traffico dal Brasile, lo prometto, e poi speriamo che davvero che succeda qualche cosa, perché i ragazzi non ci stanno facendo divertire più di tanto alla voce polemica, alla voce discussioni, dibattiti, sembra tutto molto normalizzato. Naim, provincia di Alessandria? Sì, dai. Sì, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, dica. È un piacere sentirti. Siete il nostro pane quotidiano, per me e per mio fratello che ci seguiamo, ci sentiamo ogni giorno voi, Pardo. Grazie. Avevo due domande. La prima, sono tifosissimo dell'Olanda. Volevo chiederti, c'è l'Olanda, passando per seconda nel girone, chi può beccare? Se l'Olanda arriva seconda nel girone, chi può beccare? Sì. c'è tra Brasile, non la, so prima, la prima del girone del Brasile, quindi se arriva seconda nel suo girone, ma tanto secondo me l'Olanda arriva prima nel, nel suo girone, comunque quel girone incrocia con quello del Brasile, di conseguenza potrebbe essere anche un Brasile primo, Croazia seconda, così in linea di massima secondo me. Sì, l'incrocio potrebbe essere quello. Che contro Costa Rica giocherà Barzagli, notizia dell'ultima ora, poi vedremo di confermarla dal Brasile. Questa è la scelta di Prandelli dopo la riunione tecnica, dunque Barzagli in campo al centro della, della difesa. Sulle note, su queste note storiche e meravigliose dei Sex Pistols, mentre c'è chi ricorda che questa sera a San Siro si potranno ammirare 5 fuori classe, non calciatori ma per Jam. Mio gruppo preferito, parentesi, e non c'entra nulla. No, io voglio parlare invece di Inghilterra con Paolo Ciaravano, che ci ha raccontato tutta la Premier League, la voce della Premier League su Fox Sport. Ciao Paolo. Un saluto a tutti. Ma i per Jam c'entrano sempre comunque. Eh? I per Jam c'entrano sempre comunque. I per Jam c'entrano in ogni cosa. C'entrano in ogni cosa, tanto che andrò a vederli stasera. Bravo, vorrei anch'io, mi piacerebbe molto. Ma ancora una volta tutto pronto per l'ennesimo flop inglese, il campionato più ricco del mondo, più conteso, più ambito, più coperto dal punto di vista televisivo in ogni angolo del globo, non riesce a produrre lo straccio di una nazionale di livello. Non è una notizia, fondamentalmente. Esatto. Mi sento di dire. È probabilmente un flop annunciato, un flop che ha probabilmente come maggiore responsabile il commissario tecnico, ma non certo l'unico responsabile. Il campionato è sicuramente il più invidiato, il più invidiabile, la nazionale non lo è già da parecchi decenni. Diciamo che sicuramente la squadra rispecchia un momento di della strada del calcio inglese abbastanza particolare, è la fine di una di un'epoca, di una generazione. Probabilmente Oxford non ha avuto il coraggio di voltare pagina e di proporla alla nuova generazione, quella che si stava affacciando, quella dei Wilshere, quella dei Barclay. E non c'è stato sinceramente questo ricambio, e probabilmente Oxford ha proposto un modulo non praticabile per i giocatori che ha a disposizione, sì. Soprattutto al fatto di giocare con un centrocampo a due, con Gerrard e Henderson, e poi con quattro giocatori offensivi costretti a inseguire, costretti a correre dietro gli avversari. Ma mentre per la Spagna c'era una ragione per non fare la rivoluzione, c'era un debito di riconoscenza da pagare, non mi sembra che Oxford avesse di questi problemi. Probabilmente è solo l'uomo sbagliato nel posto sbagliato, come c'era il sospetto fin dall'inizio. Sì, il sospetto c'era sin dall'inizio, sinceramente c'era anche dopo l'Europeo. Lui fu chiamato diciamo di corsa poco prima dell'Europeo del 2012, gli venne data fiducia anche sulla successiva grande manifestazione, ma sinceramente l'Inghilterra che abbiamo ammirato tra virgolette agli europei del 2012 non mi sembrava un esperimento da portare avanti. Inghilterra-Italia fu il simbolo di un'Inghilterra che cambiava la storia, con l'Italia a fare la partita e l'Inghilterra a fare il catenaccio. Certo, certamente. Senti Paolo, mi concedi 30 secondi per il traffico, non ho pardo a lanciarlo, lo lancio io, ma vorrei fare altre due parole con te dopo. Convocati. No, pero lo que queríamos y bueno, ahora a disfrutar, a descansar y pensar en Italia, que también es mucho más importante. ¿Es cierto que habías soñado otros goles? ¿Lo dijiste a tus compañeros? Lo soñé esto. Y la verdad que estoy disfrutando este momento por todos los momentos que viví, las críticas que recibieron, bueno, acá tienen. Gracias, Luis. Ahí estaba Luis. Paolo Ciaravano, normale che l'Inghilterra sia stata uccisa da un suo figlio, Luis Suarez, che sentiamo qui in lacrime, pagina dal libro cuore, meraviglioso giocatore che, dicevo prima, più che un curriculum ha una fedina penale. Cassano e Balotelli sono dei bambini dell'asilo al suo confronto, ma resta un giocatore fantastico. Sì, assolutamente, tutto vero, però anche il suo score è impressionante. Ah, certamente. Sì, mi sembra la fotografia giusta per tornare al discorso che facevi tu in fase introduttiva, e appunto i grandi campioni che rendono la Premier League un campionato che assomiglia tanto a una sorta di NBA del calcio, poi spesso l'Inghilterra se li trova contro nelle grandi competizioni. Quella mancanza di grandi giocatori che c'è, e che forse andava incoraggiata con un cambio generazionale, si rispecchia poi in una mancanza forse non solo di giocatori ma anche di allenatori. Dobbiamo chiederci perché forse in Inghilterra ci siano così pochi allenatori inglesi. In Inghilterra hanno voluto tornare a un allenatore indigeno, a un allenatore locale, dopo la parentesi capello, tutti contenti che Rooney potesse utilizzare il cellulare durante il ritiro, però francamente a livello tattico la squadra mi sembra molto poco centrata. Sì. Senti, ti chiedo ancora questo, visto che ho aperto il radiovoto, l'ombra del partito per l'Italia stasera chi potrebbe essere? Per te sarà Eddie Vedder sicuro, per l'Italia chi potrebbe essere? Sì, ci sarà un maxi schermo, dicono, potrò seguire. Ma direi Pirlo. Pirlo. Direi Pirlo. Qualcosa perché... di nuovo, insomma, una novità assoluta. No, esatto. No, ma sono tanto per fare un nome nuovo. Perché mi sembra, guardandomi intorno, che ci siano pochi giocatori, sinceramente, tuttora alla sua veneranda età, con la sua cifra tecnica. Guarda, siamo sempre lì a dire che se Pirlo fosse nel centrocampo di questo Brasile, probabilmente non avremmo neanche un mondiale. Probabile. Grazie Paolo. Un saluto, alla prossima. Divertiti stasera con i ragazzi. Grazie Paolo Ciaravano. Salutami Eddie Vedder. 800240024 è il numero verde. Io leggo varie opinioni e varie interpretazioni via SMS 3492386666 su chi potrebbe essere l'uomo della partita di questa sera per l'Italia. Insomma, praticamente leggo tutta la formazione, Chiellini compreso. C'è chi vuole andare a mangiare due spaghi a casa di Ciro pure. Eugenio da Brescia si prenota anche lui, siamo già in un sacco. Mica male, C'è chi scrive Ulisse a proposito dell'Inghilterra: difesa non all'altezza di un mondiale. Rooney giocatore normale rispetto al campionato. Sì, Rooney giocatore normale, probabilmente perché non gli è stata costruita come si sarebbe dovuto fare intorno a una nazionale, perché Rooney comunque resta un super giocatore. Io ho l'impressione che ma l'Inghilterra ci hanno provato in tutte le maniere, ci hanno provato con Capello e con i suoi metodi, con i suoi sistemi, ora ci hanno provato con Hodgson che sembrava lì per grosso modo per tappare un buco. In un modo o nell'altro la verità rimane sempre quella che tutte le volte ad ogni mondiale, ad ogni europeo mi rimbalza in testa, rimane quella del vecchio Sven-Goran Eriksson. Questo tipo di campionato, così, questo tipo di calcio così stressante, che ti porta a giocare sempre alla massima intensità così tante partite, non ti permette, probabilmente non ti permetterà mai di avere una nazionale fresca, credibile, accettabile anche dal punto di vista atletico alla fine della stagione, perché è vero che il campionato inglese, che la stagione inglese è una, diceva bene Paolo Ciaravano prima, la più gettonata del mondo, però ti comporta un livello di stress fisico, mentale ed emotivo che è francamente insopportabile. Questo lo ha sempre detto Eriksson, che ci ha sbattuto il naso, e questa è, credo, temo, la realtà. 800240024 numero verde. Io adesso voglio volare in Brasile da Dario Ricci, nostro inviato, per avere conferma della notizia che abbiamo avuto prima. Chi gioca? Dario Ricci, buongiorno. Eccoci Carlo, buon dia da Recife. Beh, immagino forse sia relativa a Buffon. No, relativa a, pare che a quanto pare giocherà Barzagli al centro della difesa. Ecco, sì, beh, devo dire che qua minuto dopo minuto si susseguono queste indiscrezioni, nel senso che, come abbiamo riportato dall'allenamento di ieri, Barzagli era dato in ripresa ieri. L'altro giorno aveva invece fatto terapie per queste tendinite che chiaramente lo tormenta da tutta la stagione. Prandelli era stato oscuro, ma al tempo stesso esplicito su questo punto, nel senso che se Barzagli e Buffon avessero dato sicurezza di un recupero, sarebbero stati loro i prescelti. Evidentemente le indicazioni di questi ultimi minuti procedono in questo senso. Ieri Barzagli si è allenato, questa è stata già un'ottima notizia, è stato bravo anche lui a camuffare le carte nella conferenza stampa nei giorni scorsi a Casa Italia, quando ha detto: è tutto passato, sto benissimo, non sento più dolore. Evidentemente questi fastidi ancora ci sono, ma visto anche il risultato di ieri dell'Uruguay, quella di oggi diventa una partita in cui non puoi neanche ipotizzare un certo, chiamiamolo, turnoverino, no? Sì, quindi. Se Barzagli sta bene deve essere lui, perché con la difesa a 4 magari Bonucci non offre le stesse garanzie. Badare, io continuo a pensare, ho sempre pensato, sia in chiave Juventus che ora in chiave nazionale, che poi praticamente è la stessa cosa, che la difesa è la stessa, che Barzagli sia il giocatore più importante, cioè il vero barometro, quello che fa tornare tutto quanto. Quindi io capisco Prandelli che, insomma, prima di rinunciare a Barzagli ci pensi mille volte. Facciamo un meteo 24? Sì. Com'è oggi? Sì, infatti, sì, facciamo il meteo 24 da Recife, rubiamo per un attimo il lavoro ai colleghi pur bravissimi, perché proprio durante effetto giorno davo notizia di una giornata particolarmente afosa e calda. Probabilmente sarà così, ma la cosa particolare del meteo qui è che comunque muta considerevolmente alla prima nuvola che passa. Ora sullo stadio di Pernambuco si stanno che tra l'altro dista dalla città una ventina di chilometri, sì, se non di più, quindi insomma cambiano le situazioni, si stanno addensando delle nubi che, se non porteranno la pioggia, però quantomeno stanno un po' attenuando la sensazione di calura e di fastidio. Quindi bisognerà vedere proprio al fischio d'inizio quali condizioni ci saranno. Lo stesso Prandelli l'ha detto, Carlo, ieri, dice: qua sono molto mutevoli, ogni quarto d'ora ci troviamo con dati di temperatura e umidità diverse, quindi è molto difficile impostare la gara sotto questo profilo. Sì, quindi lo scopriremo vivendo anche la storia dei time out. Ricordiamo che la decisione viene presa in questo caso un'ora e mezza prima della partita, fino adesso non li abbiamo ancora visti. Potrebbe essere il giorno. Sì, e poi il criterio fondamentale che considera la FIFA sono i 32 gradi di temperatura. Sì, ora, sì. Senza tener conto dell'umidità e della temperatura percepita, quindi certo, è chiaro che è un valore anche limite. È un valore che lascia il tempo che trova, naturalmente. Grazie Dario, a dopo. Ciao. Grazie, abbracci. A dopo, ciao. Allora, Bet Corner, GR e poi di nuovo qui 800 24 00 24, il numero verde. Quote e pronostici. Dopo il successo dell'Uruguay sull'Inghilterra per 2-1, oggi gli occhi del mondo sono puntati sull'Italia, che alle 18 scende in campo a Recife all'Arena Pernambuco per la sua seconda partita contro il Costa Rica. Queste sono le quote SNAI. L'1, la vittoria degli azzurri, è quotata 1,50. L'X è a 4. Il 2, con il successo della Costa Rica, è quotato 6,75. È possibile anche indovinare il nome del primo marcatore. Tra gli italiani il favorito è Mario Balotelli, quotato 5, Motta, Pirlo, Marchisio e Candreva sono quotati 10, De Rossi e Immobile sono quotati 15. Nella Costa Rica invece spicca il nome di Campbell, quotato 10, e di Ruiz, quotato 20. Alle 21 invece a Salvador c'è Svizzera-Francia. L'1, la vittoria degli elvetici, è quotata 4,75, l'X è a 3,60, il 2, con il successo invece della Francia, è quotato 1,75. Chiude il quadro il match delle 24, dove a Curitiba si gioca tra Honduras ed Ecuador. L'1, la vittoria degli honduregni, è quotata 5,50, l'X è a 3,85, il 2 invece, con il successo dell'Ecuador, è quotato 1,60. Questa era l'ultima delle quote di oggi, a risentirci domani. Tutti convocati. Standing in line, faith and hope to buy themselves time. We are figureheads, each breath goes by, I only own my mind. The north is to south what the clock is to time. There's east and there's west and there's everywhere light. Mica male, eh? I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. Oh, io penso che è una questione di lui capire che può fare meglio. Una questione semplicemente di capire le sue vere potenzialità, semplicemente questo, e potenzialità versus ambizione. Io con queste potenzialità posso avere delle ambizioni completamente diverse, semplicemente questo. Io dico sempre ai miei giocatori, principalmente ai giocatori giovani, che quando Dio ti ha dato una potenzialità speciale, tu devi approfittare e non sbagliare e approfittare di fare una carriera no bella, però bellissima. Le possiamo vedere queste immagini con Prandelli che finisce una telefonata, ci saluta, ci guardiamo dalla finestra e però dice, insomma, qui è dalle 4 del mattino che si sentono queste trombette, insomma la sensazione è che non si sia dormito bene, è un Prandelli abbastanza stizzito, ovviamente l'affetto fa piacere, ma fino a un certo punto, perché poi se non si riesce a dormire, la speranza è che al di là di Prandelli, che deve essere lucido, abbiano dormito bene gli azzurri. A te. Questa voce è qualcosa, non tanto quella di Pardo che conosciamo bene, è splendida, ma è di Vedder, ragazzi, mi mancava troppo. Ciao Pier. Come va? Benissimo. Sentito? Hai dormito o ti hanno svegliato le vuvuzelas di importazione? Sì. Che è successo? Vabbè, il successo è quello che abbiamo mostrato a Formedia, cioè a un certo punto Prandelli si è affacciato, io l'ho salutato da lontano. Mi sono agitato come un ultra, praticamente facendogli dei tagli, porta, namo, eccetera, eccetera. E poi sempre con questo linguaggio del corpo a distanza, gli ho detto tutto bene, fatto insomma, il gesto è abbastanza evidente, quello delle trombette che dalle 4 del mattino hanno, diciamo, stato il sonno degli azzurri. E poi adesso dirti quanto questo possa aver influito, insomma, diciamo, che è una di quelle cose televisive, no? Perché comunque l'immagine è una immagine curiosa e comunque racconta notizia, c'è dietro, insomma, cioè, se il sito con troppo calore non c'è dubbio, poi se questo avrà avuto. Ma comunque per chiarire non erano quelli del o della Costa Rica, questione ancora in sospeso. No, almeno non lo so, perché anche qualche mattina onestamente dormivo, però era un altro albergo. Però sì. Sinceramente no, nel senso, siamo arrivati stamattina, c'erano. Ma magari dopo approfondire questa cosa, insomma, quello che abbiamo trovato stamattina alle 7:30 locale erano specialmente i canti di contro della nazionale, tipo con la trombetta, cioè diciamo. E la gente che ha voglia di far cacciare così. Trombazzate d'affetto. Trombazzate d'affetto. Me lo vedo Prandelli che esce in ciabatte col bastone in mano di notte, ragazzi, via di qui, basta, come la nonna, Senti, prima di Marco da Brescia, Michele provincia di Lecco, 800240024, un sacco di ascoltatori come al solito, Barzagli, giusto? Sì, Barzagli sembrerebbe fare un ciclissimo in exit poll delle nostre corse, dato Barzagli e Buffon. Barzagli e Buffon, quindi sì, diciamo risolti a favore dei due titolari ballottanti. Sì, poi scopriremo se decreteranno finalmente questa storia dei time out. Lo chiedo anche a te, Meteo 24 com'è lì a quest'ora? Allora, Meteo 24, oltre a ricordare che c'è traffico a Nogaro le Rocche, vogliamo dopo dire devi che lanciarlo, perché prima è stata una richiesta espressa di un ascoltatore Pardo che lancia il traffico, gli ho dato appuntamento alle 15:45, certo. Lo lanciamo fra poco. No, non c'è, tra poco non c'è, non cascarmi in questo errore. Vabbè, non lo so, cioè, a parte il traffico, qui fa caldo. fa caldo, è previsto dai meteorologi una stazione durante la partita, fa un caldo a quest'ora, insomma 10:13 del mattino, abbastanza normale per però sono le 10:13. Devo dire la verità, ieri aveva ragione Brambelli, cioè la cosa impressionante è la velocità con la quale si passa, da momenti nei quali arriva un bel vento che ti dà un po' di refrigerio, a momenti in cui veramente invece il caldo è quasi insopportabile. Allora, comunque il calcio inizia alle 13, diciamo che non aiuta. Certo. La nazionale si è molto spesa su questo tema, la sensazione è che difficilmente nel sopralluogo si arriverà ai 32 gradi che servono per concedere i time out, e che quindi giocheremo senza time out e insomma speriamo che non sia un problema. Il Meteo 24 dice, Pier, Meteo 24 dice che per l'ora della partita dovrebbero esserci 26 gradi con il 71% di umidità, 7-1, tanta roba, tanta roba. Lo so, ma qui poi il problema è a prescindere, cioè voglio dire, non è che lo scopriamo oggi. No, no, questo è evidente, dai. Giocare a Recife a due passi dall'equatore alle ore 13, insomma, è vero che qui è inverno, però chiaramente adesso non voglio fare la geografia astronomica, però chiaramente essendo vicino all'equatore il concetto di distanza, no? Cioè, non è che poi sia così tanto inverno, equivale a un'estate italiana. Insomma. Certo, certo. L'umidità, perché la temperatura sicuro non è drammatica. No, chiaramente 6 gradi. Non so che tempo c'è in Italia in questo momento, ma insomma, nei giorni caldi d'Italia di questo periodo fa più caldo che qui. Guarda, ti dico più o meno il clima che c'è in questo momento a Milano. Bel sole, non c'è quell'umidità, però secondo me sforiamo i 26 gradi. L'importante è che tutto questo, reale, per carità, però tutto questo non si travesta da alibi, perché questo sarebbe, questa è l'unica cosa da evitare. Poi tutto il resto, reale, ok, farà caldo per noi, per loro sono più abituati. Tutte queste storie, va tutto bene, l'importante è non usare la coperta di Linus mai. Marco Brescia, no, buongiorno. Dimmi Piero. No, sono d'accordo, anche perché facendo tutte le corna e gli scongiuri, noi nella prima partita, visto comunque era giocata in condizioni calde, abbiamo mostrato una tenuta fisica nettamente superiore, nettamente migliore all'Inghilterra, di quella dell'Inghilterra. Quindi diciamo che gli exit poll da questo punto di vista sono positivi, nel senso che la squadra mi sembra che sia stata molto brillante nella prima partita. C'è la speranza che la preparazione sia stata veramente fatta molto molto bene. Ieri sera ne parlavo anche a cena con Zio Bergi e anche lui, tutti e due abbiamo incrociato un po' di fonti, un po' di informazioni, e la sensazione è questa, che veramente il livello di scientificità della preparazione degli azzurri sia di primissimo livello, e sappiamo che nel calcio moderno insomma la condizione fisica conta, non dico dell'80%, ma insomma quasi. Chiederò all'Inghilterra. Siamo gli ottimisti, ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Non c'è niente di nuovo, all'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre pessimismo. Yeah! Io dichiaro ufficialmente fondo il partito dell'ottimismo. Yeah! C'è troppo poco entusiasmo, porca vacca, secondo me andiamo là e vinciamo. Yeah! E quando mi è stata posta la domanda chi vince i mondiali, io ho detto l'Italia. Yeah! Dai, basta piangere addosso, di qui e di là, vinciamo noi. Siamo gli ottimisti, ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Yeah! È più, secondo me è più importante di un pallone d'oro, di un campionato, di Champions League. Questo è il nostro refrain, anche se c'è chi scrive oggi perdiamo 2-0 senza fare un tiro in porta, i soliti ottimisti. Marco Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo solo dire che forse i nostri amici degli UK dovrebbero evitare di avere 4 nazionali e per vincere ne facessero solo una. Sì. Voglio dire, Galles, Scozia, Irlanda del Nord e insieme all'Inghilterra farebbe una buona nazionale. E lo so, Marco, però la storia, la tradizione è quella. Più che altro arrivano spremuti come limoni a queste competizioni, poi se sbagli anche il commissario tecnico, e questa non è una gran notizia, ci mette in carico da 90 e ciao. Pierluigi, calcio inglese pazzesco, non riesce a produrre una nazionale decente. Guarda, secondo me non vincerebbero ugualmente, nemmeno mettendo i gallesi, gli scozzesi e i nordirlandesi, sinceramente. Perché? Io credo che, ma perché secondo me, con tutto il rispetto per Ramsey, per i tempi d'oro, per Bale, non lo so, io non penso che aggiungendo Ramsey e Bale a questa squadra potrebbero vincere, sinceramente, così come hanno fatto nel passato, aggiungendo Giggs, McAllister o Gordon Strachan, sarebbe stata un'Inghilterra da un Regno Unito a quel punto da vittorie. Ma dov'è l'errore secondo te, nella qualità dei giocatori? La squadra è una squadra, quella di quest'anno secondo me è una squadra abbastanza acerba, abbastanza immatura, che appunto mescola alcuni leader in ribasso, uno su tutti, insomma, Steven Gerrard, che si avvia, secondo me ha già dato tanto in carriera, però insomma ci sono troppe ingenuità. Il gol del 2-1 di ieri è qualcosa che non può succedere, non so come dirti. Sull'1-1 contro l'Uruguay non può succedere un gol del genere, che è preso dal rinvio del portiere avversario, e poi c'è tanta foga ma poca lucidità, c'è tanta pressione. Io poi ti dico, quest'anno non ho seguito l'Inghilterra, però nel 2013-2014 ho seguito i ritiri. Lo sport nazionale, lo sport della stampa è creare pressione a questi ragazzi, cioè giocano con, mi ricorda un po' il tipo di pressione che c'era sull'Inter un po' di anni fa, sì. Nel senso che poi quando per tanti anni non vinci, ovviamente prima dei successi, prima di Mourinho e di tutto il resto, però insomma mi ricordo che una volta Giacinto Facchetti mi disse proprio questa cosa, mi disse l'Inter è come una bottiglia di champagne, prima o poi ci sarà questo tappo che esploderà, e da quel momento arriveranno vittorie a fiumi, al di là di Calciopoli, che chiaramente è un dato oggettivo, ha creato delle condizioni più semplici per i primi successi dell'Inter, che poi ha vinto anche ovviamente nell'epoca successiva. Però tornando al discorso di partenza, secondo me la pressione che sentono i giocatori inglesi in questo momento è una pressione, un'ansia da prestazione che è veramente enorme, che è simile a quella che c'era sull'Inter in quegli anni lì. Era diventato lo sport ovviamente nazionale dei non interisti prenderla in giro, considerarla come la squadra che non vinceva mai, eccetera eccetera. E sugli inglesi c'è lo stesso tipo di discorso, sono gli inventori del calcio, hanno un campionato meraviglioso, sono all'avanguardia sotto mille punti di vista, hanno dei giocatori strapagati. Poi vabbè, la Premier League è piena di stranieri, questo va detto. In Inghilterra si gioca troppo, sì. Si gioca troppo, e c'è anche rispetto ad altri paesi, forse per la generosità dei calciatori inglesi c'è meno abitudine nel risparmiarsi nelle partite poco importanti. Sì. Io credo che alla fine la stagione inglese t'ammazza. Questa passione che hanno per le coppe, no? Uh-huh. Cioè Conte fa turnover, poi è stato criticato, fa un turnover contro la Roma e riesce dalla Coppa Italia, però voglio dire, è un ragionamento che magari molti non saranno stati d'accordo, però comunque l'ha fatto, non è morto nessuno. E in Inghilterra, la Coppa d'Inghilterra fino a qualche anno fa era il più importante del campionato. No, certo, giocano alla morte una quantità infinita di partite, e prima citavo, come faccio sempre ad ogni mondiale ed europeo, perché è un refrain ormai, Eriksson che dice con quei ritmi non arriverai mai nelle condizioni accettabili per poter essere competitivo. Poi è vero la pressione, è anche vero che sono giocatori che giocano in club che convivono costantemente con la pressione. Michele, buongiorno. Buongiorno. Chi sarà l'ombre del partito questa sera? Ma io spero tantissimo, come avete detto voi, in Pirlo, però credo che Darmian, messo sulla sua fascia, visto quello che ha fatto vedere dall'altra parte contro l'Inghilterra, possa fare la differenza oggi. Sì, anche se non è detto che uno più uno faccia due, che Darmian possa addirittura migliorarsi rispetto. Però è vero, una delle dei grandi dubbi che mi sono portato alla partita con l'Inghilterra e nei giorni successivi era quello di giocatori fuori ruolo rispetto alle loro abitudini. Oggi avremo una difesa, Pierre, che preso giocatore per giocatore è totalmente diversa rispetto a quella con l'Inghilterra, perché Chiellini torna centrale, perché c'è Barzagli ovviamente, perché Abate non c'era, perché Darmian cambia fascia, quindi difesa totalmente nuova dal punto di vista delle posizioni in campo. Sì, ma quello che è abbastanza sorprendente è che Prandelli negli ultimi due mesi ha cambiato tutto, ha cambiato completamente strada, e come dicevamo prima della partita con l'Inghilterra non era detto, e non è detto adesso a maggior ragione dopo quella vittoria, che sia stata una cattiva notizia. Però sicuramente è una nazionale che arriva con una fisionomia completamente diversa rispetto a quella con la quale si è qualificata, e arriva anche con una fisionomia diversa rispetto a 2-3 mesi fa, perché insomma c'era un momento in cui per esempio si pensava alle due punte con Cassano titolare, c'è stato un momento in cui Darmian, diciamo la verità, è stato è stato preso per trentesimo e poi ha fatto il salto, è diventato addirittura titolare e Perrazzi ha comunque giocato la prima partita, anche se oggi ci sarà Thiago Motta, però insomma sicuramente è una squadra molto diversa da come l'aveva impostata, però forse alla fine è meglio così, cioè in questo momento mi sembrano quelli che stanno meglio e comunque la fisionomia, secondo me c'è stato dal punto di vista della fisionomia un ritorno al primo brandellismo, quello dell'inizio delle qualificazioni per gli europei, cioè la ricerca comunque di una certa fisionomia molto precisa del gioco, la ricerca del possesso palla in mezzo al campo, un'idea alta, non un'idea speculativa, certamente. Bella. Ma poi abbiamo detto un sacco di complimenti. Sì, ma poi abbiamo insomma espresso diversi dubbi sul fatto che alla vigilia del mondiale Prandelli sembrava non avesse le idee chiarissime, cioè sembrava una squadra work in progress, sembrava una squadra in divenire o cambiata all'ultimo momento. In realtà poi cambiare idea strada facendo ed adattarsi è un pregio più che un difetto, questo certamente in un mondiale soprattutto. Mauro, provincia di Roma, buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo grazie per la convocazione, volevo riagganciarmi al discorso perché arrivano spremuti a giugno. Inglesi. Ma non è possibile spostarli come fanno le Olimpiadi, tipo all'inizio di agosto. Che? I mondiali? I mondiali, sì. Per farli giocare con un po' più riposati e poi vedere dal vero quello che succede. Oddio, non credo. Non credo io potrebbe essere una soluzione. A Ponza d'agosto al frontone mi sembra un'ottima opportunità. No, agosto come si fa? A parte che agosto ci sono tutti i preliminari di Champions, delle coppe. No, c'è la stagione. I campionati che cominciano. C'è la stagione, certo. Ma poi voglio dire, significherebbe non fanno più vacanza proprio, quindi no. Allora, e poi non è. Non lo so, no, si potrebbe fare, ma insomma non credo che succederà mai una cosa all'africana, cioè farli a metà stagione, sì. Farli a gennaio. Beh, ma sai che la storia del Qatar, sì, certo, mondiali certo. Che non vedremo mai, mi auguro, né certo. D'inverno né d'estate. quelli in Qatar. Tra l'altro sì. Ieri parlavo col mio amico Hussein di Bein Sport, sì. Mio amico libanese, grande testimonial dell'italianità nel Medio Oriente, perché insomma sapete che Bein Sport Al Jazeera chiaramente ha una quantità incredibile di telespettatori per ovvi motivi proprio fisici di popolazione di abitanti, e c'è un'identificazione con le grandi nazionali enormi, e mi raccontava che per esempio in piazza Beirut, quando ci sono le partite delle grandi squadre, veramente ci sono i tifosi come se giocassi in Libano, per dirti, no? E addirittura ci sono delle volte cose poco carine, tipo si bruciano le bandiere degli altri, cioè ci si divide come se fossero squadre di club. Sì. E mi diceva che gli investimenti, guardando quantità di soldi mostruosa, l'idea è quella di fare metropolitane che possano collegare tutti gli stati e tutti i principali alberghi, perché praticamente non esci mai alla luce del sole, cioè esci solo nel momento nel quale ho capito però devono uscire alla luce del sole i giocatori per giocare, il problema è quello, non è spettatori. Nel caso a gennaio, ma sono d'accordo con te che ci sono parecchi dubbi. Non si può vedere un mondiale di calcio laggiù, dai, poche storie. Poi no, stavo leggendo, il mondo è bello perché è vario. Allora, sentite questi due messaggi. Il primo: fenomeni, punto. Darmian ha giocato tutto il ritorno sulla sinistra e siete voi che in Italia seguite solo tre squadre. Questo è un messaggio. Altro messaggio, Gianni da Biella: Darmian nel Toro gioca a destra dietro a Cerce e poi a fine campionato era a sinistra al posto di Pasquale infortunato. Il mondo è bello perché è vario. Convocati. Va quadrato, arriva il pallone nell'area di rigore, lo stacco di testa per il gol del vantaggio di James Rodriguez, 1-0 per la Colombia. Leandro Gutierrez trova la palla per Serie 10, rischia il dribbling su James Rodriguez, perde un pallone sanguinoso. Leandro Gutierrez comanda in porta Quintero, posizione regolare per Quintero, entra dalla panchina e fa il gol del 2-0. Occhio Gervinho, che numero di Gervinho, 63. Del portiere, l'arbitro fischia la fine e allora è 0-0 a Natal tra Giappone e Grecia. Quindi, per completare il riassunto delle partite che abbiamo visto ieri sera, Colombia che si è confermata, vabbè, Giappone-Grecia, lo dicevo prima, roba da bollino rosso, mondiale. L'avevamo detto ieri, no? Vai in onda mezzanotte, mica per caso. Roba da bollino rosso totale. Intanto ho visto una notizia dell'agenzia che vi rilancio subito, è ufficiale, c'è una trattativa in corso, in fase avanzata, tra l'Orlando Football Club, squadra americana, e Kakà. Questo è un comunicato dell'Orlando Football Club. E l'Orlando, secondo ESPN Brasil, dovrebbe girare però Kakà in prestito al San Paolo prima che inizi la stagione. Dario Ricci, però, dal Brasile, credo che abbia un ospite. Sì. Dario, ciao. Eccoci dalla pancia dello stadio Pernambuco di Recife, accanto a me Beppe Bergomi, che vedo che stiamo studiando entrambi con i quadernini questo Costa Rica. Beppe Scaldalugola per commentare la sfida con Sky. Beppe, vedo Olympiacos, Copenaghen, PSV, questi costaricani il calcio europeo lo conoscono bene, sono alcune delle squadre di provenienza dei loro talenti. Sì, a parte due che giocano in panca nel Saprissa, che è la Juventus del Costa Rica, gli altri, soprattutto nel nord Europa, no? Norvegia, Danimarca, Svezia, hanno iniziato lì la loro carriera, sì, un po' di esperienza ce l'hanno, ma non so, io vado un po' contro tendenza, perché sento qui molta gente che è preoccupata. Insomma, io ho visto un'Italia che sta bene sul campo, che vuole dominare il gioco, e se facciamo quello che abbiamo fatto contro l'Inghilterra, da questo punto di vista, io penso che possiamo portarla a casa anche oggi la partita. Infatti eri ottimista, eri tra gli ottimisti come anche noi prima dell'Inghilterra. Beppe, non si rinuncia a Barzagli, cioè Prandelli fa ben capire che se c'è un giocatore insostituibile là dietro è lui, e quindi prima di lasciarlo fuori ci pensa 100.000 volte. Sotto l'aspetto psicologico, Prandelli anche nelle conferenze stampa non ha mai sbagliato niente. Qui secondo me rischia qualcosa, perché se non sta bene al 100%, poi un giocatore come Bonucci gli devi dare l'opportunità di giocare, perché se non ti fidi vuol dire che gli dai un messaggio negativo a questo ragazzo. Però capisco anche, insomma, che poi un allenatore deve andare con le proprie scelte, con le proprie convinzioni, e nella sua testa Barzagli è fondamentale e determinante per questa nazionale. Altre scelte prandelliane: Abate a destra per avere un po' di spinta e bilanciarlo con Darmian nelle discese, Thiago Motta a centrocampo. Pagheranno, come le vedi dal punto di vista tattico? Guarda, noi un terzino sinistro di ruolo non ce l'abbiamo, si è adattato Chiellini, però insomma di piede sinistro non c'è, si sacrificherà Damian da quella parte, spingerà ugualmente, ma arrivare sul fondo e crossare sarà più complicato, a meno che sia migliorato anche da quel punto di vista, perché sta facendo molto bene. No, mi sembrano corrette, insomma, da quello che ho capito io Verratti non sta bene fisicamente dagli ultimi test che hanno fatto, preferisce l'esperienza e anche l'intelligenza di Thiago Motta, che in questa partita dove la fisicità secondo me conterà molto, lui è un giocatore importante. Magari anche in vista di un calcio piazzato, Thiago dal punto di vista difensivo e anche offensivo può darci qualcosina in più. Sì, da quel punto di vista sì, perché Thiago di testa è fortissimo in tutte e due le fasi di gioco, nell'impostazione si può alternare benissimo insieme agli altri, perché poi Prandelli sappiamo che i tre di centrocampo un po' li fa ruotare in fase di impostazione, è la scelta, che è un giocatore che Prandelli tiene molto in considerazione, ed è corretto insomma alternare in vista anche delle partite future. Domande da studio per perfetto, lo zio Bergomi. Perfetto così, Dario, ti ringrazio. Perfetto, grazie. Lo lasciamo studiare, grazie. Allora. Salutaci lo zio, nostro grande amico. Grazie a Dario Ricci. Volevo chiedere ancora una cosa a Pierluigi Pardo, me la sono scordata, ma pazienza. Adesso me ne viene in mente un'altra. Sto scherzando, era questa. Senti Pier, si fa un gran parlare di questo Campbell, l'attaccante della Costa Rica. I pericoli da lui o ne vedi degli altri? No, lui è uno dei giocatori più pronti, perché comunque l'ha dimostrato, ha fatto già la Champions League con l'Olympiacos, è un giocatore, ovviamente c'è il discorso dell'Arsenal, è un giocatore interessante, sicuramente più pericoloso, ma insomma il resto è 5-4-1, grande tenuta fisica. Io sono rimasto molto impressionato nel secondo tempo con l'Uruguay, che mi è sembrato veramente di altissimo livello. Bisogna stare più che altro attenti a quello, bisogna stare attenti al loro dinamismo, bisogna gestire bene le energie, questa roba qui bisogna fare. L'Uruguay è rimasto sorpreso sicuramente nel secondo tempo del Costa Rica, forse anche illuso dal gol del vantaggio, quindi questa è l'unica vera incognita, insomma. Sapevo che lo zio era ottimista, perché ieri sera abbiamo parlato, e l'ottimismo della ragione più che quello della volontà. Sì, sì, paragoni sì. giocatori, paragoni d'aspetto tecnico. Beh, dai, siamo più forti. Pensi pure alla fine che se perdi con Costa Rica, alla fine è anche giusto che esci. Ma certamente. A proposito, a proposito di uscire e non uscire, Piantanenda ieri prima si è prodotto in mille calcoli, dai quali risulta che dobbiamo battere Costa Rica, ma non sarebbe ancora fatta. No, potrebbe non bastare. Potrebbe non bastare, è vero Pier, battere il Costa Rica. Noi potremmo anche battere il Costa Rica 1-0, poi perdiamo con l'Uruguay, metti caso, 2-0, Costa Rica batte l'Inghilterra, siamo fuori, per differenza reti poi. Lo ricordiamo, quello che conta come primo criterio dopo i punti era differenza reti. Esatto. Ed è stato fatto proprio per evitare il rischio biscotto che spesso vediamo in Champions League o che abbiamo visto anche a livello per esempio di competizioni europee, mi riferisco all'Europeo del 2004 con Svezia-Danimarca, con Svezia-Danimarca nel 2004. E quindi contro la differenza reti noi in questo momento siamo 2 gol fatti, 1 gol subito. No, esatto. Vincere, possibilmente vincere bene se vinciamo per esempio il 3-0. Esatto, e vincere bene. Gli scongiuri, a quel punto andremo a più 4, l'Uruguay in questo momento è a meno 1 e quindi dovrebbe vincere poi eventualmente 3-0 l'ultima partita con noi. Cioè, il vero pericolo per l'Italia è arrivare alla fine di questo girone a quota 6 con Uruguay e Costa Rica e vedere poi la differenza reti solo fra queste tre. Allora, questo è il rischio che corre l'Italia, quindi occorre vincere bene stasera. Enzo sì, Milano, però, dimmi. Però il primo criterio è comunque a differenza reti, quindi si prende questo discorso, facciamo anche l'altro giorno. Sì, no, però se arrivano tre squadre a pari merito, poi bisogna togliere i 2 gol che noi abbiamo fatto all'Inghilterra, è quello il concetto, nel senso. Comunque. Speriamo di trovare una condizione lì. Tutto l'altro giorno. In ogni caso si guarda la differenza reti, poi a parità di differenza reti si guarda la differenza reti soltanto negli scontri diretti. Ah, okay, okay, l'andamento degli scontri diretti. Quindi insomma è più semplice di quello che è. Dobbiamo vincere possibilmente bene, perché meglio vinciamo oggi e più siamo protetti anche in caso eventualmente di sconfitta all'ultima giornata dell'Uruguay. Okay. E in fondo è tutto molto facile, bisogna vincere segnando tanti gol e allora stiamo tutti tranquilli. Dicevo, Enzo da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Grazie per avermi convocato, saluto tutti i radioascoltatori. Niente, io ho visto il Costa Rica e francamente mi ha impressionato, perché li ho visti correre, attaccare tutti gli spazi, soprattutto il portatore di palla. E secondo me il pericolo che noi possiamo veramente essere pericolosi attaccandoli con Candreva e sulla fascia destra, secondo me Candreva è una vera, stasera sarà una vera spina nel fianco per loro. Sì, ma io credo, Enzo, che insomma, non sono per nulla preoccupato dal punto di vista del piano partita, perché lo dicevo prima. Possiamo temere mille cose, possiamo pensare a mille cose, la loro fisicità, la loro abilità nel correre, però ragazzi, ma affrontare l'Italia è sempre una brutta storia per chiunque dal punto di vista tattico, dunque è vero, è una partita con diverse incognite, bisogna stare molto attenti, seguire piano partita e poi la chiave, io sono convinto, si troverà. Marco da Pisa e poi Pierluigi Pardo, prima di salutarci lancia il traffico. Marco. Ciao, che programma è? Che programma è questo? Che programma è? Pier, no, aspetta, no, posso raccontarla a Pardo? Marco, la posso raccontare a Pardo? Così la ricordiamo. Fortissima. Allora, sì. Pier, senti questa, ci sei? No, Pier, ci sei? Doveva lanciare il traffico. Pierluigi Pardo non c'è. Marco da Pisa, che programma è questo? Niente, no, volevo dire... per creare un po' di polemica, no? Sì. Io penso che questo mondiale sia stato già un po' indirizzato con l'arbitraggio del Brasile, perché il Brasile se pareggiava la prima partita aveva 2 punti soli. E beh, poi però Marco bisogna vedere cosa faceva la seconda. Il tempo è poco, però io volevo fare un piccolo ragionamento ritornando anche all'Italia-Corea, si ricorda come mandare degli arbitri scarsi allo sbaraglio, dandogli degli input come favorire una squadra. Ne ha pagato anche Obredo con la Fiorentina, cioè la FIFA. Ma l'arbitro giapponese non era scarso, ha sbagliato, però insomma, non era scarso, è uno degli arbitri più. Comunque Marco, l'importante è che anche questo, insieme al caldo, al meteo eccetera, non si trasformi in un alibi, perché io lo ripeto dal 2002. noi non siamo usciti dal mondiale in Corea per il signor Moreno, siamo usciti perché abbiamo giocato in maniera pessima quel mondiale e quella partita in maniera particolare. Sì, però scusate, no, ma che poi tutto il resto è vero, tutto il resto è vero. No, ma noi magari uscivamo la partita dopo, però quella partita lì Totti fu buttato fuori, cioè il rigore non dato, cioè fu clamoroso, cioè l'arbitraggio fu indirizzato. Come è successo, se lei si ricorda, in Chelsea Barcellona con Obredo, che Pogba voleva uccidere l'arbitro, che poi fu congelato fino alla partita con la Fiorentina. Sì, no, ricordo bene. Tornando al discorso di questo indirizzare questi, la FIFA non vuole la moviola, non vuole proprio per queste situazioni delle volte. Meno male con il gol con non gol, perché il gol di Muntari è ancora vendetta. Sì, va bene. Ma va bene tutto, però. Anche la schiuma da barba mi sembra buona, Nicky, ieri. Ottima, la schiuma da barba è perfetta. No, allora, posto che io non sono del partito dei moviolisti, ma questo lo ripeto da 15 anni o di più, senz'altro le due innovazioni che sono state portate a questo mondiale sono estremamente, estremamente efficaci. E insomma, detto questo, non mi pare di poter dire fino a questo punto che esista ai mondiali un problema arbitrale. Certamente qualche episodio sì, ci sono un miliardo di partite, qualche episodio sì, quello del Brasile a partita inaugurale, d'accordo, però sinceramente da qui a dire che è un mondiale in cui si sente, su cui la legge del sospetto, beh, ancora no, poi vediamo cosa succede. Pardo, ce lo siamo persi per strada, il traffico devo lanciarlo magari io. Torna, no, Pardo, mi ha mandato un messaggio, vediamo, vuole tornare, un minuto. Vediamo, sì, è disperato. Traffico. Tutti convocati. È difficile trovare delle parole per esprimere una gioia. Una gioia perché io penso, come mi ha detto Paolo Lazzaroni prima, che io faccio una vita riservata, penso, vivo tra casa mia Santa Colomba e palazzetto, non sono uno che chiacchiera, non so il nome quasi di nessuna persona, ma sentire così riconosciuta non solo la laboriosità, anche la passione dentro la laboriosità, credo che sia qualcosa di bellissimo, che non avevo mai provato nella mia vita, e purtroppo, e non sto parlando di quanto sarà lunga questa finale, visto che la partita non è di, la domanda era di pallacanestro, e un giorno dovrò prendere la macchina e andare via, e quel giorno io non ci voglio pensare a quel giorno. Allora, questo non riguarda i mondiali, non riguarda nemmeno il calcio, ma certamente riguarda lo sport. Questo era Marco Crespi, allenatore della Mensana Siena di basket. Io mi sto alzando in piedi sul tavolo per Marco Crespi, non per la Mensana, non mi interessa, non tipo nessuno, però Marco Crespi è un idolo assoluto, per veramente per la passione nella laboriosità che ci mette, veramente è un grande, basta, mi espongo così e faccio fatto sta che ieri hanno vinto finale scudetto, che c'è anche quello nel basket, ieri gara 3, eravamo 2-0 per Milano, ieri Siena ha asfaltato l'Armani Milano 85-68 e la storia continua. Sai chi ha parlato? Sì. Da sotto gli ombrelloni? Chi ha parlato da sotto gli ombrelloni? Max Allegri, da un po' che non lo sentivamo. Esistevamo. Max Allegri, che ha parlato e ha detto una cosa molto interessante su Pirlo. Sapete che, insomma, lui da quando è andato via dal Milan, insomma, anche quando era al Milan, gli hanno sempre rinfacciato il fatto di aver ceduto Pirlo. Insomma, vediamo tutt'oggi. Allegri. Credo che la questione di Pirlo, chiusa 3 anni fa, voglio dire, è stata una scelta, insomma, di Andrea, della società, quindi è stata spiegata e rispiegata. Poi è normale, Andrea è un grande campione, ha fatto benissimo alla Juventus, ha fatto bene l'altra sera in nazionale 3 anni fa, quando lo fece giocare in quella posizione mi davano del matto. Dunque, si è difeso, ha tentato una difesa d'ufficio, non riuscitissima in realtà, anche perché Pirlo è Pirlo, poi per esigenze particolari può giocare ovviamente dove vuole, anche in porta probabilmente, però Pirlo è Pirlo in quel ruolo che tutto il mondo conosce così bene. A proposito di tutto il mondo conosce così bene anche Diego Armando Maradona. Ogni giorno noi dovremmo fare una rubrica su Diego Armando Maradona, visto che non è più allenatore, non è più giocatore. Meno male che qualcuno gli regala, non credo, insomma, un microfono da cui dire delle meraviglie del genere. Maradona, lo sentiamo? No, non lo sentiamo. Come no, Maradona? Maradona si è perso. Non c'è Maradona. Maradona si è espresso su Del Bosque, che insomma, dopo la sconfitta, dopo l'eliminazione della Spagna, Maradona ha voluto dire la sua in suo tono. Adesso vedo di là che si agitano gli animi. Cosa ha detto? Ce l'abbiamo. Eccolo lì. Non ce l'abbiamo. Vabbè. È un complottone contro Diego Armando Maradona, che ha dato del baffone al suo amico, per modo di dire, Del Bosque, e gli ha detto: "El bigotón non capisce nada". El bigotón sarebbe il baffone. Il baffo, il bigote in spagnolo. Il momento del migliore in campo tra gli ascoltatori di oggi. Ronald, provincia di Imperia, buongiorno. Buongiorno, leggenda. Buongiorno. Un piacere, scusate che le chiamo a un orario nel quale uno normalmente dovrebbe lavorare, ma dopo la vincita di ieri del mio paese Uruguay, grande, è stato grande. Veramente un giorno libero. Un giorno libero, giusto, è come giusto che sia. Com'hai visto l'Uruguay? L'ho visto molto molto bene, migliorato tantissimo. Il peccato che sempre si fa in qualsiasi squadra è un po' l'arroganza o sottovalutare le squadre avversarie. Logicamente ieri abbiamo visto una partita veramente fino al fondo con tutta la voglia. Speriamo di vedere una partita fino in fondo e con tutta la voglia e con magari lo stesso risultato anche dalle 18 in poi, Italia-Costa Rica. Ma lo sapevi che Carolina Kostner e Alex Schwazer si sono lasciati? Veramente? Scusa, volevo chiederlo la settimana con una cosa che non c'entrava assolutamente nulla. Veramente? Si sono lasciati. Ci sta tutto, anche il mucchio selvaggio? Vedi, mette sempre questa Scaltritti, non è per capire. No, probabilmente non ci dormirò questa notte, anzi è quasi certo che non potrò dormire questa notte per questa notizia che Antanida ci ha dato giusto in chiusura. No, io spero che... insomma, ci diverta tutti insieme e sono molto fiducioso, ovviamente, sono molto ottimista sull'andamento della partita di questa sera. Anzi, ma pronostico non lo fa, oggi non mi va. Non lo fare, non oggi, lo fare. Oggi pronostico, sono molto molto ottimista come sempre, il pronostico oggi non mi va, domani ne parlerete con Capuano da 17 alle 18, bis domenica 17-19, non lo faccio pronostico oggi, non mi va di farlo, non mi va. Beh, lo faccio io 1-1, 2 ore al calcio d'inizio. Non sono d'accordo, sono molto molto più ottimista, ma comunque ci ritroviamo lunedì dalle 14 in poi, tutti convocati. Grazie Franco Piantanida, Roberto Scaltritti, Claudio Schiattone. Ciao. Saluti a tutti. Emiliano Mondonico, non so se farti complimenti per la lettura perfetta o se dire vabbè, era già tutto previsto. No, l'avevo già vista. Ecco, dovete... sai, alle volte anch'io penso di ingannare gli altri. Questo l'avevo già vista e perciò mi è risultato facile. Noi l'abbiamo inventato prima, il tucatuca. Perciò non siamo secondi a nessuno, neanche sotto questo punto di vista. Luis Gustavo Monaco, giornalista di Estado de San Paolo. Ciao Luis, grazie. Ciao, buongiorno. Da quello che si dice qui in Brasile... Poi mai con al posto di Dani Alves, giocando anche al posto di Paulinho, che non sta giocando bene, Fernandes o Fernandinho, quello del Manchester City. Maurizio, fai una domanda all'allenatore di Ochoa, Fabrizio Ravanelli, collegato con noi. Volevo sapere da te se davvero lo consiglieresti a una nostra squadra. Credo che sia un buon portiere, sia pronto anche per il campionato italiano. Se vuoi